Domenica da incubo per Silvio Berlusconi, per consolarlo della vittoria dei socialisti in Francia e della batosta nel derby che ha dato lo scudetto alla Juventus, la figlia Barbara gli ha dato una bella notizia. Papi, presto mi sposerò con Pato. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.